Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 11. Il Cli è il ricevitore all'interno del Malchut. Abbiamo i desideri più duri e più difficili. La luce viene dall'alto. Prima entra nel Keter, poi Chokhmah, Binah, eccetera. La prima luce è la luce più piccola. È la luce di Malchut, perché anche la luce deve essere divisa. La luce ha diminuito la sua forza. Per prima cosa dobbiamo imparare come gestire la luce per goderci la luce. In seguito possiamo ricevere sempre di più. La sfera Malchut è la prima che sarà riempita. Come primo indica la luce più bassa. Keter è sopra. E lui è l'ultimo che entra nella nostra coscienza. Prima la Malchut, la luce più bassa, e da qui possiamo andare oltre, verso la luce più intensa. Vedi le 8 sfirot come il tuo spazio interiore. La luce entra prima in Malchut. È una piccola luce e possiamo venire all'esperienza di questa piccola luce. Malchut sono i desideri più rozzi, e questa piccola luce è sufficiente per rendere trasparente Malchut, per illuminarla. Una volta che tutte le luci sono qui sotto, poi ogni cosa verrà nel posto giusto. La luce arriva dall'alto in basso. Vedi il tuo Malchut come uno scompartimento della tua consapevolezza. Malchut accende Yesod. E la luce entra in Yesod. Dobbiamo iniziare dal basso, altrimenti la luce non può raggiungere il suo proprio posto. Iniziamo sempre da sinistra a destra, da Malchut a Yesod, da Yesod a Hod, e da Hod a Netzach, eccetera. Arriva alla comprensione c'è solo l'ora. Non pensare mai alle cose accadute in passato. Prima i Greci conquistarono Israele e poi vennero i Romani. Ma non stiamo parlando di persone, di popoli. È tutto sulla vittoria in me stesso. La vittoria del male in me stesso. Questa è la vittoria di cui stiamo parlando. Non il greco o il romano è il nemico. Io ho un solo nemico, il mio male. Ovviamente gli eventi del passato è la nostra storia, ma non è il nostro vero nemico. Devi cambiare il tuo male nel bene. Cos'è il male? Il male è solo mancanza temporanea. È è una mancanza di correzione per far vedere il bene dietro al male. Più correggi te stesso, più bene vedi. La nostra prima correzione è una correzione facile, e poi le correzioni diventano più pesanti. Nel Malhut non vediamo assolutamente la forza creazione. In questa parte siamo completamente separati dalla santità. Solo in questa separazione della santità possiamo vedere che nessuno di noi è capace di salvarsi, e da questo punto più profondo dentro noi stessi, dalle delusioni più profonde, vediamo che non c'è nessuna possibilità di venire alla luce. Dall'interno deve esserci il grido più profondo. Solo allora arriva la luce. Noi siamo tutti uguali. Ed il Creatore desidera questo da noi, come uguale a un partner lo desideri. È il Creatore che ha creato tutto e spetta a me lasciarlo entrare. Ma non abbiamo la conformità con la luce, sebbene le religioni ci dicono il contrario. Devo venire all'esperienza, devo sentire il desiderio, e il desiderio per la luce deve essere enorme. Così ora posso avvicinarmi a lui nell'uguaglianza. L'amore ha molti modi, molte qualità. Amo mio figlio, ma lo mando via. Io non dico stai con me. Devo lasciarlo andare, così ora può diventare anche lui indipendente. Dobbiamo sviluppare un amore indipendente. È lo stesso nella nostra relazione con il Creatore. Siamo usciti dalla luce, ma era il suo desiderio. Così ora possiamo venire all'amore indipendente per il Creatore. Salire su come partner alla pari. Tutto è predestinato, è la nostra scelta quello che facciamo. Noi scegliamo per il bene o il male. Questo è l'essere umano. E lì è nella sinistra e nella destra, è con la luce o è nelle tenebre. Abbiamo bisogno di entrambi. Prima di reagire dobbiamo scegliere, e attraverso la scelta saremo ricompensati. Puoi solo sperimentare più luce quando vai sempre più in alto, e la tua esperienza deve essere nell'ora e non nell'aldilà. Le persone erano tenute stupide, e anche questo era necessario. Proprio come una madre che dice a suo figlio: mangia così dopo sarai forte come tua madre o tuo padre. Questo è il modo per venire alla vera esperienza della luce. Non siamo interessati alle tradizioni, ma devi conoscere i processi spirituali che sono coinvolti. Posiziona e sostituisce tutto nell'ora, non nel passato. Sperimenta l'ora. Devi sentire ogni esperienza nell'ora. Solo questo momento è reale. Solo in questo modo si può venire in contatto con lo spirituale. Quando il creatore non dà ancora una cosa a una persona, chi sono io per dire quali chi sono io per dire quali istruzioni deve seguire o per dire cosa sta facendo di sbagliato? Non farlo mai, mai fare la predica perché sei tu a non ricevere la luce. Renditi piccolo, umile. Qualunque sia la tua religione, ognuno di noi pensa che la sua religione sia la migliore, ma nonostante la sua religione deve venire in modo personale all'esperienza della luce. Ognuno di noi deve rendersi trasparente, aperto alla luce per godersi il Creatore, godersi la vita eterna. Non nell'aldilà, ma in questa vita. Solo quando viviamo nell'ora possiamo sperimentare il bene e il male. Sperimentare i punti di forza nell'ora porta alla giusta reazione. Solo nell'ora puoi sperimentare. Quando parliamo di giorno e notte, intendiamo che il giorno è come la luce e la notte è come l'oscurità. Vai a dormire prima possibile. Lascia che ti racconti una storia. Riguarda l'epoca del comunismo in Russia, quando si cercava di entrare alla festa. C'erano alcune domande. Smetterai di bere? Di certo, bevo solo quando sono alla festa. Smetterai di fumare? Sì, certo, fumo solo quando partecipo alla festa. Smetterai di guardare le donne? Sì, certo, non più donne per me. Infine, l'ultima domanda. Rinuncerai alla tua vita per il paese? Certo, cosa è rimasto della mia vita? Anche noi dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Smetti di fare cose che ti stanno trattenendo dal tuo grande obiettivo. La mattina presto la luce si alza. Chesed sta sorgendo e la misericordia splende tutto il giorno. In seguito arriva Gvura, l'aspetto femminile e le limitazioni. Durante e alla sera la luce è limitata attraverso l'aspetto femminile Gvura. Questo è un principio e i principi sono lì per ognuno di noi. Ovunque tu possa vivere su questa terra. Quando è giorno per te, Chesed è presente e quando siamo nelle ore notturne, per te è presente la Gvura. È semplice. verso mezzanotte, alle 12, c'è una forza speciale. È la forza della gentilezza. Questo è un momento molto speciale. Vedilo in questo modo. Quando ti tieni occupato in questo momento, in un modo molto consapevole, e chiedi al Creatore, acceleri il tuo processo, perché in questo momento ricevi i tuoi chilim. Quando preghi la notte, tu ricevi una piccola luce sotto forma di un cli. Il cli è un organo di consapevolezza e quando la luce si alza e la luce di Chesed entra, tu hai già un vaso per ricevere la luce. È così facile. Chesed splende tutto il giorno. E quando ho un posto per ricevere la luce, mi sono aperto e fatto trasparente. E il momento di mezzanotte è il momento migliore per rendersi trasparente, sensibile. Quando diventa mattina, hai un posto dove entra la luce di Chesed. Misericordia. Quando preghiamo la sera, facciamo i kilim per il giorno. Essere consapevoli dietro ogni tradizione, c'è la forza creativa. Non si tratta di tradizione. La tradizione di per sé non significa niente. È tutta una questione di forza all'interno della tradizione, quella purifica. Cosa sarà purificato? Saremo purificati da tutti i nostri desideri egoistici. Lascia che ti faccia un esempio di questo mondo. Prima c'era il petrolio greggio. Il petrolio greggio non brucia così bene. L'olio deve essere raffinato in modo che l'olio brucerà bene. Raffinare meglio l'olio. Migliore è la combustione. È lo stesso con noi. Più stiamo purificati, più la luce può entrare dentro di noi. Abbiamo bisogno di un posto per ricevere la luce. Noi abbiamo liberato un posto interiore per ricevere la luce. Tutto riguarda la forza interiore. Il vero uomo è colui che si apre. Si libera per la luce infinita, per Ein Sof. Renditi piccolo dall'interno, poi riceverai dall'alto. E questo è il tuo lavoro personale. Nessun altro può farlo per te. Permettetemi di darvi una traccia. Ve lo spiego ancora una volta, così capirete la giusta comprensione. Prima c'è l'Ein Sof, la luce senza fine. Questa luce è coperta da tutti i tipi di forme, i 10 Sfirot. Quindi abbiamo l'essere interiore. Quindi l'area del bene e del male. Il vero bene è il male dentro di me. Infine, l'essere esterno significa i suoi desideri esteriori come mangiare, bere e sesso. E intorno a queste forme vediamo il creatore nella sua qualità chiamata natura. Stiamo guardando da dentro a sopra. L'Ein Sof è al piano superiore ed è dentro l'essere interiore. Quindi abbiamo il livello del bene e male è l'essere esterno. Domanda: quando fu l'atto della creazione? Adam è stato creato il sesto giorno. Tutte queste forme erano all'interno di Adam. Vedi il disegno. Stiamo parlando della nostra consapevolezza. Adam era nato dall'interno del Creatore, il Signore. Sentiva solo l'essere interiore. Non c'erano altri sentimenti. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo di Adam. Ha solo sperimentato la sua parte interiore. Era consapevole dei desideri dalla sua testa alla sua vita. Inoltre, non aveva sentimenti, non era consapevole delle forze sotto la sua vita. Naturalmente là c'era Chava, Eva, ed erano nudi. Ma non pensare a un uomo e una donna. Nudi significa che non hanno provato vergogna. Non erano entrati nell'area del bene e del male. Quello che lui fece era con il suo interiore, è quello che noi chiamiamo paradiso o il giardino dell'Eden. È l'area dell'essere interno. Questa area è l'area del bene e del male, sono dentro ogni essere umano. Questi sono i nostri strati interni. È il percorso dell'esperienza. L'esperienza interiore è dell'area del bene e del male. Questo è ciò che sperimentiamo e questo è anche il tema del nostro studio. Il soggetto del nostro studio è l'essere interiore, è l'area del bene e del male. Non abbiamo interesse per l'essere esterno. Nessun interesse per qualsiasi religione o cultura, o qualunque sia il tuo background. Nel nostro studio iniziamo con il bene e il male. Ovviamente l'essere esterno sarà corretto, ma la nostra preferenza si trova nell'interno. La Kabbalah parla del tuo interiore. Adamo sentiva solo la sua parte interiore. In un certo senso era il più perfetto specie, buon cuore, di uomo. Non c'era separazione tra l'interno e l'area del bene e del male. La sua consapevolezza era in parte nell'area del bene e del male. Questa è la parte che chiamiamo la fonte della vita. È il nostro albero della vita, e ogni essere umano ha questo albero della vita in lui. L'essere interiore raggiunge metà dell'area del bene e del male. Ricorda, bene e male, tutto è qualitativo. Più ti avvicini all'interno, più sei buono, più ti avvicini all'esterno, più è male. E a metà strada vediamo l'albero della vita, e questo è l'oggetto di cui parla la Torah. Tutti questi strati sono dentro il nostro interiore, dell'area del bene e del male. L'albero della conoscenza è l'albero del bene e del male. Da questo punto diventiamo consapevoli del peccato presente in ogni essere umano. Cos'è il peccato? Adam era una specie buon cuore di uomo. L'essere interno è il paradiso. Adam ha lavorato nel giardino dell'Eden. Quando diciamo ha lavorato, non pensare che stesse lavorando fisicamente con la vanga e il rastrello. Lui stava facendo giardinaggio nel suo interno e gli tolse tutte le spine e l'erbaccia, girò il terreno in modo che la rosa potesse sbocciare. Questo è stato il lavoro che ha fatto nel paradiso, perché Ein Sof glielo ordinò. Era il desiderio del Creatore che ci sarebbero tre ascensioni. Tre ascensioni della luce. La prima ascensione era su Shabbat. Significa l'entrata della luce alta. Poi la seconda ascensione e la terza ascensione della luce. Ma Adamo non poteva aspettare per la terza luce. Voleva già ricevere prima che la luce arrivasse a lui, prima che lui avesse portato la luce dentro di lui. Se l'avesse fatto, avrebbe dovuto sperimentare dall'interno dell'essere fino al suo essere esterno, e non ci sarebbe stato alcun male nel mondo. Adam aveva già purificato la metà dell'area del bene e del male dall'interno, e noi lo stiamo facendo dall'esterno. Adamo aveva purificato la metà dell'aria dall'interno. Ed è per questo che si sentiva come un superuomo. La luce gli dava così tanto potere. Si sentiva come un superuomo. E quindi pensava in sé: Io posso fare il resto da solo. Si sentiva così forte che non ha aspettato la luce, la terza ascensione dal Creatore. Pensava di poter raggiungere la luce anche dall'alto, altro lato. Si sentiva così forte. Lui pensò che potesse penetrare il mondo del bene e del male per mezzo di lui stesso. Una volta che pensiamo di poter fare qualcosa da soli, vediamo il serpente. Qual è il serpente? Quali sono i poteri del serpente? Sono le forze dell'essere esterno. Il serpente si sistema proprio a metà strada tra il bene e il male. I desideri egoistici terreni. All'inizio non c'era il serpente. Adamo aveva purificato il paradiso. La sua purificazione raggiunse quasi l'aria dell'essere esterno e qui sentì, sperimentò il serpente, i poteri dell'essere esterno, esterno. E questi poteri lo stavano stimolando. Questo era qualcosa di nuovo per lui. Non lo aveva sentito prima, così la separazione con l'essere esterno si fece più piccola. Ora i desideri esterni potevano raggiungerlo. Lascia che ti racconti una storia su come ho imparato in Israele la Torah. Ero un uomo di 40 anni. E stavo seduto tra i ragazzini, ragazzi di età molto giovane. E con loro ho imparato la Torah in profondità. Tutti questi ragazzi così innocenti, ortodossi. Ho guardato questi ragazzi e ho visto che erano proprio come Adam. Non sentivano l'essere esterno e mi chiedevo qual è la loro realizzazione. Naturalmente uno può arrivare al suo compimento, ma più tardi, quando crescono e si sposano, hanno il gusto dell'essere esterno. Tutti i desideri esteriori verranno a loro. Uno può essere un santo, ma proprio quando uno è un santo, la seduzione sarà molto potente. Perché? Perché non c'è l'opposto per resistere a tutte queste seduzioni. Uno deve assaggiare proprio come Adam. Non è sbagliato usare i tuoi desideri. Devi provare tutto, ma è tutto circa a cosa stai facendo con i tuoi desideri. E questo dipende solo da te. In te stesso hai tutti i desideri e questo non è sbagliato. Ognuno di noi deve diventare il suo sovrano. Più forza costruisci e più forte diventerai. Adam entrò nell'aria esterna dall'interno, ma non poté resistere alla tentazione. In questo modo il Creatore ci ha creati. È il suo desiderio di sedurci, così ora possiamo costruire la forza. Adam sentì il serpente. Sentì il serpente che lo stimolava. Perché sei così divino? Vieni a cena con me. Gusta del piacere che puoi sperimentare qui con me. Adamo era così forte, ma egli non era forte per andare là. Ma quando immediatamente si sentì forte, per primo lui sperimentò la forza di Ein Sof, ma non la forza dell'esterno. E anche questo lui poteva sperimentare. Ma all'inizio non c'era nessuna tentazione. Era ancora nell'aria del bene assoluto, ma non era la sua volontà. Il Creatore gli disse di non andare oltre. Adam non era pronto per penetrare la terza luce. Così il Creatore gli disse: aspettami, dopo tu puoi godertelo per sempre. Ma Adam pensò, continuò insieme a Eva, e non si rendeva conto che non era il momento giusto e il posto giusto. Ed attraverso questo lui ruppe la sua coscienza in piccoli pezzi. Domanda. Supponi di vedere un'enorme quantità di denaro, diciamo 20 milioni di sterline. Cosa fai? Riesci a resistere alla tentazione? Supponiamo che tu vinca la lotteria. Quali sono i tuoi piani? Stai andando a fare questo e quello? E di conseguenza non pensi niente sul Creatore? Quando ti senti così felice, rompi i poteri spirituali che avevi costruito una volta. Pensi solo a quello che puoi fare con tutti questi soldi. Non c'è tempo per tenerti occupato con l'interiore. Sai che ti stai disapprovando. Ti stai perdendo per tutti quei soldi. Ed era lo stesso per Adam. Adam vide che poteva sperimentare, vide la tentazione dei 20 milioni nello stesso modo in cui vediamo la tentazione. Oh sì, pensò al Creatore, ma la sua forza era sparita. Quando fai lo stesso, anche tu ti spezzerai. Tu distruggi te stesso. Devi sapere che è molto difficile vivere nella vera spiritualità. È difficile vivere nelle ora. Nessuno sa cosa è ora realmente. Quindi, come facciamo per qualcosa che non conosciamo? Il Creatore manifesta Lui stesso solo nell'ora. Ma siamo distrutti con il passato e dalle immagini future. Ad esempio, supponiamo che stai morendo. Poco prima che qualcuno muore, si sente sollevato. Tutti i piani, tutte le questioni fisiche sono spariti per lui. Questo è un sollievo. Non c'è più fisica, non c'è più prurito. Quando questo accade, tu vieni all'interno, non ci sono più piani, e tu passi nella morte della veste fisica. Il fisico non ti infastidisce più. Sarai lasciato in pace. E questo è il punto di vedere il momento eterno. Nessun nuovo piano, nessun dolore, niente. Io suggerisco di non aspettare la tua morte. Ma vivi ogni minuto come se fosse l'ultimo. Prova a vivere come se è l'ultimo momento della tua vita. Solo allora puoi avere la sensazione del momento attuale. Quando pensi solo all'ultimo momento, c'è un pensiero sul futuro? Nessuna solitudine in questo ultimo momento. Niente più peccato. Solo vivere assolutamente. In questo momento senti il tuo respiro. Puoi seguire il tuo cuore. Prova a vivere come se l'ultimo momento della tua vita. Solo nell'ora puoi sentirti vivo, davvero vivo. Devi combattere ogni giorno e ogni giorno, combattere per te stesso, per obiettivo della creazione, considerando te stesso. Lezione 11. Ti dico solo delle cose che ho vissuto. Posso solo parlarti di quello che ho vissuto. Non importa se capisci. È tutto basato sull'esperienza e lasciare che l'esperienza ti entri. A causa della tua vita stessa, io devo imparare a trattare col mio proprio ego. Alla fine di una vita, il proprio amore sarà rivelato. La prima parte riguarda la parte spirituale. La Kabbalah deve aiutarti. Guardiamo il testo, pagina 7. E non è sufficiente, non va avanti nel suo lavoro. Vede che sta andando indietro e non ha la forza di fare la Torah e le prescrizioni con l'intenzione di per sé stesso. È solo attraverso la vera vittoria di tutti gli ostacoli, con la fede oltre la conoscenza, egli può svolgere la Torah e le prescrizioni, ma non sempre ha la forza di superare gli ostacoli andando con la sua fede al di là della conoscenza. Ed è corretto a deviare dal sentiero, del Creatore, anche con l'intenzione per se stesso, egli non può farlo. Non è sufficiente lui, non va avanti. Significa che egli che sta lavorando su di sé ha la sensazione che sta andando indietro. Lui non segue le prescrizioni, le leggi dell'universo, e per di più, lui non può farlo per il suo bene. Non c'è modo che possa seguirle. Lui non può vedere il suo proprio vantaggio. Delle persone compiono le prescrizioni coi pensieri: è buono per i miei bambini, o è buono per al di là. Ma loro non lavorano né loro. Solo attraverso la fede oltre la conoscenza egli può seguire le prescrizioni. Ci sono sentimenti di resistenza dall'interno fino all'arrivo del cambiamento. Anche tu puoi sentire che una battuta d'arresto ti dà forza, è che questa battuta d'arresto è opera del Creatore. Allora puoi trovare la forza e di conseguenza avrai l'esperienza e la sensazione che non ti lascerà mai. Ora tu realizzi che il tuo interno è un rifugio e puoi sempre contare su stesso esso. Non c'è un giusto mezzo, non c'è via di fuga. E non si può fare più tardi o poco convinto. Un essere umano sperimenta tutti i momenti spiacevoli come sofferenze. Non è facile venire qui, nel senso di venire al corso che si tiene ad Amsterdam. L'ego è resistenza. Vuole che tu stai a casa. Mai dare modo al tuo ego. Questa è la battaglia e devi essere il vincitore. Ma come funziona l'ego? Prima di iniziare il nostro lavoro spirituale, abbiamo fatto buone azioni. Perché? Perché era il desiderio dell'ego e ci sentivamo bene. L'ego era soddisfatto e ci ha lasciato in pace. Ma ora imparerai qualcosa di diverso. L'ego resiste. Esso è il tuo stesso amore che viene in resistenza. Ora l'ego non sente bene. quando il tuo ego ti dà questi segni e non stai ascoltando il tuo ego, devi sapere che l'ego diventa rabbioso, non ottiene la sua strada. In quel momento l'ego ti mostra la sua debolezza. Devi sapere questo è il segno che si sta procedendo. Prima l'ego era calmo e ora si ribella. Sappi che questa è progressione. Ora l'ego ti mostra la sua vera faccia. È l'ego che ti dice non andare alla lezione di Kabbalah. Hai una gustosa cena. O fai questo o fai quello. L'ego non ti dice mai lotta per la tua vita. E ogni momento deve essere una lotta per la vita, per la tua realizzazione. Devi gustarlo. Lentamente arriverai a raccogliere i tuoi frutti. Ogni generazione si avvicina all'obiettivo del Creatore. Sto solo accelerando questo processo, il tuo tempo. Tutti i disegni che faccio sono dentro di te. Tutto è dentro di te. Nel disegno tu vedi tutti i campi di forze, le forze dell'universo. La luce è lentamente il grossolano della luce. Prima il Creatore aveva ogni cosa dentro di lui e poi egli si ritira da se stesso. Così ora c'era uno spazio per l'Ein Sof. Questa è la luce senza alcuna grossolanità. Questa fu la sua prima creazione. Poi venne il mondo di Adam Kadmon, il primo mondo spirituale, la prima grossolanità della luce. Questa prima luce era molto sottile e trasparente. Questo era il primo ingrossamento per creare la creazione. Doveva rendersi parecchio grossolano prima che potesse arrivare nel nostro mondo. Fino a che il punto della luce era così lontana dalla sua prima sorgente, l'essenza dovrebbe dire ora io. Non c'è altra creazione che possa dire io. Le creazioni vicino alla luce sono più servitori, non esseri che possono dire io. Pertanto, neanche gli angeli possono dire io. E nei mondi spirituali solo Malchut, che ha tutte e quattro le fasi di Aviut, o spessore del desiderio. E perciò è chiamato così Ani, nell'ebraico, io. E poi l'anima dell'uomo, sviluppata fino al suo stadio di Malchut. Il primo mondo, il mondo di Adam Kadmon, fu reso grossolano e divenne azioluto. Tutte le correzioni che facciamo provengono da questo posto. Questo è anche un mondo molto sottile, così vicino a Ein Sof. E noi non possiamo parlarne a questo proposito solo nella maniera di radici. Le radici sono la prima esperienza, la nostra prima comprensione del materiale. Non possiamo parlare, è addirittura proibito parlare di questo. Ma posso dirti un po'. Solo ciò che è necessario per la comprensione. Azilut è il mondo di luce e da questo mondo riceviamo le nostre correzioni. Dopo Azilut arrivano altri tre mondi, e cioè Briah, Yetzirah e Asiah. Tre mondi grossolani. Sempre più grossolani. E l'ultima parte del mondo Assia è il nostro mondo. Qual è il nostro mondo? Il mondo che sperimentiamo. Il mondo dei nostri desideri, persino l'intero universo, i pianeti. Le stelle, eccetera, tutto ciò che è materiale, anche lo spazio, dove il viaggio spaziale potrebbe mai arrivare, tutto appartiene al nostro mondo materiale. Tutte le altre parti dove il materiale non può arrivare, può essere solo penetrato dalle nostre comprensioni spirituali. Nessun viaggio nello spazio può arrivare qui. Vedremo che questi sono i rivestimenti dell'Ein Sof. La parola ebraica per il mondo è Olam. E Olamah significa la stessa radice. Nascondere, e Olamah significa nascondere, il mondo nascosto. È l'occultamento della luce. E questo è il tema del nostro studio. Studiamo questi quattro mondi, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. Perché? Noi stiamo guardando dalla luce. Prima c'era la luce, poi la grossolanità che circonda, ed è all'interno di tutti gli altri cerchi, come anelli di cipolla. Uno strato è di Adam Kadmon. Questo è uno strato molto sottile, circondato da un cerchio. Noi siamo il prodotto del nostro mondo. L'Adam di cui stiamo parlando è nato tra i mondi Azilut e Briah, visto dall'alto. C'era sempre più grossolano. E il più rozzo grossolano è il punto nel mezzo del nostro mondo. Qui abbiamo tutti i desideri per ricevere, comprese le stelle, il sole, tutto e più e meno. È lo stesso con i punti di forza nel nostro mondo, più e meno. Adesione e coesione. Il lato più esterno è il più rozzo. Più ti avvicini al lato interiore, più leggeri e più sottili i punti di forza saranno fino ad arrivare all'esperienza della forza più profonda e più alta all'interno di se stessi. Dove possiamo trovare l'essere umano di questo mondo? All'esterno. Il cerchio esterno. Guarda il disegno. Tutti i campi di forza all'interno dell'essere umano sono Ein Sof. Quindi l'essere interiore seguito dall'aria del bene e del male e infine dell'essere esterno. Tutto è in conformità con gli attributi. L'essere interiore è conforme ad Azilut. Questo è il mondo della correzione e tutte le correzioni provengono da questo mondo. Abbiamo bisogno di queste correzioni per essere conformi agli attributi del mondo superiore. Quali sono i punti di forza con cui dobbiamo conformarci? L'essere umano è solo nel nostro mondo e nell'area di Bria, Yetzirah e Asiya. In questi mondi abbiamo l'area del bene e del male. Più ci avviciniamo all'essere interiore, più ci avviciniamo al mondo Bria. Nel mezzo vediamo il mondo Yetzirah. E il nostro esterno corrisponde al mondo Assia, l'ultima parte dell'Assia. Questo è dentro di noi l'area del nostro mondo. Qui abbiamo i desideri del nostro mondo, per esempio cibo, bevande, eccetera, eccetera. Qual è l'Ein Sof all'interno dell'essere umano? Puoi vedere questo come le aperture all'interno di una persona mediante, dove lui può ricevere la luce. Ein Sof non è una parte dell'uomo, ma un'apertura per sperimentare la luce. Anche le altre aree sono dentro l'essere umano, l'essere interiore, l'area del bene e del male è il nostro mondo. Qui vediamo le forze, i desideri e il piacere del nostro mondo. Ma tutti questi mondi sono dentro l'Ein Sof. Più sperimento il bene, più mi avvicino all'essere interiore. Più il male sperimento, più mi avvicino all'essere esterno. Non possiamo conoscere l'Ein Sof, ma gli altri mondi possono essere conosciuti. I campi dell'essere interiore, l'area del bene e del male, e l'essere esterno e quindi sono collegati con i mondi Bria, Yetzirah e Assia. Questi sono i campi dell'esperienza. In queste aree, in questi mondi, in questi campi di forza, qui vive l'essere umano. Quando riesci a capire questo, andrai avanti molto velocemente. È tutto dentro di te. Con il tuo sforzo, entrando in te, giungerai alla comprensione. Qui abbiamo la chiave della vita eterna. Prima c'era Ensof e poi gli strati. Lo strato dell'essere interiore. Questa è l'area del bene assoluto. Poi abbiamo l'area del bene e del male seguita dall'essere esterno. Ho detto una volta che non c'è alcun bene all'interno di un essere umano. E sebbene ora io dico, o ora io dica che l'essere interiore è l'area del bene assoluto, anzi, tu pensi che questa sia una contraddizione, ma non lo è. Guardalo in questo mondo, guardalo in questo modo. Supponiamo che non vi sia assolutamente nulla di buono in te, come puoi essere conforme al bene assoluto? Questi tre strati sono gli esseri umani. Questo è l'interno dell'essere umano. Non l'Ein Sof, questa è solo un'apertura nell'essere umano. Ma questa apertura è così splendida. Attraverso questa apertura la luce splende dentro di me. Il modo intero vivo in me, ma non è mio. Non la parte dei miei desideri. Stiamo parlando della struttura dell'albero di vita. È possibile. Per noi è possibile per noi avere l'albero di vita se non abbiamo nulla di buono. L'albero di vita è parte del grossolano della luce. Il creatore aveva fatto tutti i preparativi. La sua interezza è resa grossolana in cinque mondi. Cinque differenti grossolanità sono dentro di noi. All'interno del buco di noi, nel più profondo dei più profondi, è da qui la luce della vita arriva. Prima l'Ein Sof, all'interno dell'Ein Sof, sono tutti tipi di variazioni. Tutti e cinque i mondi sono nell'Ein Sof. Nel più profondo del più profondo brilla la vera luce. All'interno della luce stessa c'è uno strato. Prima Adam Kadmon, poi Azilut. Una forma più ruvida e più grezza della luce, ma dentro è la luce infinita. E questo è dentro me, in quel buco, nella splendida apertura che ho dentro me. Tutti i poteri provengono da questo posto, il luogo da dove viene la vita. Da questo posto arriva la vera realtà. Tutti e cinque i mondi sono all'interno dell'Ein Sof. Il nostro mondo è il mondo più rozzo, l'essere umano è il più rozzo, ed è l'aspetto animale all'interno dell'essere umano. Il mondo interiore, il bene e il male, il nostro mondo sono il risultato dell'accettazione alla qualità. O in altre parole, è l'intenzione di venire in conformità con questi mondi. Come il profeta disse, sto facendo quello che fa mio padre. Ciò significa guarda nel profondo dentro te stesso e allora avrai accesso all'intera struttura. È il padre. Io ho lasciato casa e sono entrato nei desideri esteriori, nell'essere umano. Questo è l'io. E l'io è formato secondo la struttura. La forma dura dentro di me e quindi mi porto in conformità con gli attributi che ho dentro di me. Questo è il cosiddetto punto del cuore, nel cuore. Questo punto nel cuore si sta diffondendo fuori. Qui inizia il desiderio, ma non è libero dal materiale, e quindi uno si sente deluso e va a tutti i tipi di corsi. Lui ancora sta cercando soddisfazione proveniente dal desiderio del cuore. Questo noi lo possiamo trovare in ogni essere umano. Non c'è pace in nessuno fino al momento in cui si inizia a penetrare se stesso. Il momento in cui inizia la ricerca per la verità. Prima c'era l'inganno, ma quando lui cerca davvero la verità, non sarà più deluso. È diventato una persona adulta.